canonico onorario e cavaliere della Legion d'Onore, il curato d'Ars canonico di Belley. Si può affermare senza pericolo di errare che verso il 1850 Don Vianney era il prete più conosciuto, più stimato e più ricercato di tutta la Francia. 10 anni prima si era visto lo spettacolo di una folla innumerevole che riuniva tutta la migliore società di Parigi a sieparsi attorno al pulpito di Notre-Dame, dal quale parlava con meravigliosa eloquenza uno dei più distinti figli dell'ordine domenicano, il padre Lacordaire. Ma ormai l'umile curato era già più famoso di lui. Finora, tuttavia, tanta celebrità non aveva procurato a Don Vianney nessuna distinzione onorifica. Al suo passaggio la folla esclamava «È il santo!» e sembrava che ogni altro titolo di gloria dovesse perdersi di fronte a questo. Anche Monsignor Davy, che pure aveva per Don Vianney una profonda stima, giudicò cosa inutile nominarlo canonico della sua cattedrale, tanto più che la consuetudine supponeva che fosse insignito di questo onore il titolare di una succursale. Ma Monsignor Chalandon, che succedeva a Monsignor Davy il 25 luglio 1852, non condivise il modo di vedere del suo venerato antecessore. Nei 2 anni in cui era stato vescovo coadiutore, aveva avuto occasione di apprezzare Don Vianney, ed una delle sue prime decisioni fu quella di rompere una tradizione e di dare la mozzetta da canonico al prete più degno della sua diocesi. 3 mesi precisi dopo la sua elevazione alla sede di Belley, il lunedì 25 ottobre, il giovane prelato, accompagnato dal suo vicario generale Monsignor Poncet e dal conte Prospero di Garez, si presentava alla soglia della chiesetta di Ars, ricevuto da Don Raymond, precedentemente avvertito di questa visita, intanto che Don Vianney continuava le confessioni in sagrestia. Appena fu annunciata al santo la visita del suo vescovo, vestito ancora della sua cotta a maniche strette, si affrettò a correre alla porta, facendosi largo fra i penitenti, per offrire l'acqua benedetta secondo il rito liturgico. E siccome quella era la prima volta che il nuovo vescovo veniva ad Ars, credette anche bene di indirizzargli qualche parola di omaggio. Ma Monsignor Chalandon, che nasconde qualche cosa sotto la sua mozzetta, con gesto rapido scioglie un oggetto misterioso di seta nera e rossa, adorno di candida pelliccia d'ermellino. Il santo comprende subito di che cosa si tratta e protesta supplicando: «No, eccellenza, date questa al mio vicario, che la porterà meglio di me». Ma tutto è inutile e Monsignor Chalandon, con l'aiuto del suo vicario generale di Don Raymond, impone a Don Vianney la mozzetta di canonico onorario. La mozzetta cade per traverso e, data l'insistenza del santo, che cerca ancora di liberarsene, il vescovo riesce a stento ad abbottonarla alle spalle, intanto che intona il Tedeum, seguito da un coro di voci che coprono l'ultima parola di protesta del canonico Vianney. Il nostro curato, asserirà poi la contessa di Garez, sembrava un condannato, condotto al supplizio con la corda al collo. Corse alla sagrestia e stava per liberarsi della sua mozzetta, quando giunse là il conte di Garez che lo persuase a tenerla, facendogli osservare che sarebbe stata un'ingiuria al vescovo il voler disfarsene. Allora, aggiungerà fratello Atanasio, invece di andare a collocarsi al suo posto solito, rimase nel vano della porta della sagrestia, come se avesse voluto nascondersi, e quando io venni a dirgli «Signor curato, ve ne prego, non state qui all'aria corrente», mi rispose «Lasciatemi stare, qui sto bene». Nella chiesa si fece una breve funzione, durante la quale Monsignor Chalandon disse alla folla che Don Vianney era stato promosso canonico onorario, e l'interessato ne ebbe tale sconcerto che neppure più pensò a raddrizzare la sua mozzetta sempre più di traverso. Giovanni Battista Mandì, che lo osservò, dice che il santo sembrava avesse sul dorso delle spine. E difatti, quando così vestito dovette rientrare in canonica, accompagnando il vescovo, ad una sua penitente, Maddalena Mandì Scipiot, parve un condannato a morte. La contessa di Garez aggiunge che quella era la scena più divertente che si potesse immaginare. La vendita della mozzetta. Dopo la partenza del vescovo, appena l'emozione fu passata, il santo pensò che dal vescovo aveva ricevuto un buon regalo, per mezzo del quale avrebbe potuto ricavare ottime risorse per le sue opere, e cercò un compratore. Ritornata un giorno da Villefranche e assistisce Maria Ricotier, mi recai dal curato per riferirgli a proposito di una commissione di cui mi aveva incaricata e mi ricevette con queste parole: «Arrivate in buon punto, vorrei vendere la mia mozzetta. L'ho offerta al parroco di Amberieu, Don Borion, che non ha voluto comprarla neppure per 12 franchi, ma voi me ne darete almeno 15. Ma, signor curato, ne vale di più. 20 allora». Ne versai 25 dicendogli: «Non è il suo vero valore, ma mi informerò e vi pagherò il resto». Seppi poi che la mozzetta era stata fatta dalle suore di San Giuseppe a Bourg ed era costata 50 franchi, somma che completai aggiungendo: «La mozzetta rimane mia, ma ve ne lascio l'uso». Il santo non fu d'accordo neppure in questo e disse: «Il vescovo me ne dia pure un'altra, saprò venderla per avere denaro». Volle che portassi con me la mozzetta e concluse: «Se il vescovo vorrà che io la porti, la troverò presso di voi». Appena 10 giorni dopo, con la coscienza tranquilla, notificava al vescovo la sua gioia: «Eccellenza, la mozzetta che avete avuto la grande carità di regalarmi mi ha fatto molto piacere, perché non avendo denaro abbastanza per completare una fondazione, l'ho venduta per 50 franchi e di questo prezzo sono contento». Né in seguito, pur fra le più pressanti insistenze, acconsentì mai ad indossarla, neppure in presenza del suo vescovo. A Don Toccanier, che un giorno gli chiedeva: «Ma, signor curato, perché non portate la mozzetta?» «Amico mio», rispose, «ricordatevi che sono più fine di quello che si pensi. Se la si vedesse sulle mie spalle, si riderebbe di me. Invece, aspetteranno in danno per farlo». «Ma la dovreste portare per riguardo al vescovo. Siete il solo che il nuovo vescovo ha voluto onorare. In seguito non ha più nominato nessun canonico». «Ah, è perché Sua Eccellenza ha sbagliato la prima volta e non vuole più correre questo pericolo». Cavaliere della Legion d'Onore. Il movimento dei pellegrini che si dirigevano verso Ars interessava anche i poteri pubblici, segnatamente l'amministrazione civile dell'Ain, che considerava Don Vianney come un uomo popolare e benemerito. Perciò il 30 giugno 1855 il sottoprefetto di Trevaux, marchese di Castellan, indirizzava al vescovo di Belley la seguente lettera: «Monsignore, ho l'onore di trasmettervi una copia del rapporto indirizzato al prefetto per ottenere che sia concessa al degno curato d'Ars una distinzione onorifica. Non dubito che il governo dell'imperatore, nell'intento di ricompensare il merito vero, vorrà prendere in considerazione i benefici insigni di Don Vianney». Com'era questo rapporto del marchese di Castellan? Vale la pena di riferirne alcuni brani. «Signor prefetto, in un piccolo comune del mio circondario, di 510 abitanti, vi è un curato divenuto celebre in tutta l'Europa per la sua santità evangelica e pietà insigne. Il nome di Don Vianney, curato d'Ars, si rivela da se stesso nelle parole dette, per quanto generiche esse siano. Il comune d'Ars, un tempo il più ignorato del mio circondario, vede ora affluire nel suo seno una folla prodigiosa di pellegrini. Si dovettero organizzare speciali servizi di trasporto che da molto tempo continuano regolarmente. Questo concorso, che dura da molti anni e che è dovuto interamente alla fama di santità di un umile prete, costituisce un fatto veramente prodigioso in un secolo in cui hanno voga dottrine antireligiose ostile alla fede cristiana. La fiducia delle popolazioni nel curato d'Ars è illimitata, è quella fede evangelica che trasporta le montagne. Si citano anche molti fatti che sarebbe difficile spiegare per mezzo di cause puramente naturali. Questo rapporto non mi permette di registrarli, ma basti constatare che non vi è ombra di ciarlataneria nel modo di fare del venerato curato d'Ars. Il Vianney è un secondo San Vincenzo dei Paoli, la cui carità opera prodigi». E dopo aver enumerato le opere dovute alla iniziativa di Don Vianney, il sottoprefetto di Trevaux conclude: «Anche dal solo punto di vista materiale è dunque un uomo eminentemente utile. Ho pertanto l'onore, signor prefetto, di pregarvi che nell'occasione della prossima festa di Sua Maestà vogliate proporre la nomina del Vianney, curato d'Ars, al grado di cavaliere dell'Ordine Imperiale della Legion d'Onore». Ricevuto questo rapporto, il prefetto dell'Aisne, conte di Coetelon-Logon, fece le istanze necessarie presso il ministro dell'istruzione pubblica e dei culti, Furtul. Questi, l'11 agosto seguente, annunciava a Monsignor Chalandon che era stata accordata al curato d'Ars la croce di cavaliere. La notizia della promozione apparve tosto nei giornali ed il nome del curato d'Ars ottenne un successo di pia e simpatica curiosità. Il sindaco ne diede personalmente la notizia al santo che, senza esprimere né meraviglia né sorpresa, domandò: «Vi è una rendita unita a questa croce? Vi è denaro per i miei poveri?» «No, si tratta solo di distinzione onorifica». «Ebbene, se i poveri non hanno nulla da guadagnare, vi prego di dire all'imperatore che non la voglio». Evidentemente il sindaco non poteva accettare una commissione così originale. Ma ecco che tosta arriva ad Ars un pittore, sicuro di un'accoglienza premurosa, per offrire i suoi servizi al reverendo canonico Veanney, cavaliere della Legion d'Onore. Il povero artista si dovette disilludere presto. Il 28 agosto la contessa di Garez scriveva: «Si vuole assolutamente fare il ritratto del curato, ma egli si oppone e dice ridendo: vi consiglio di fare il mio ritratto con la mozzetta e la croce della Legion d'Onore, sottoscriverete niente e orgoglio». Più tardi, facendo allusione a questi oggetti, un prete scherzava piacevolmente col santo: «Signor curato, tutte le potenze della terra vi offrono decorazioni. Dio non mancherà di decorarvi in cielo». «È quello che mi fa paura», rispose il santo con tono grave. «Guai se alla morte mi presentassi con queste bagatelle e dovessi sentire Dio che mi dice: hai già ricevuto la tua ricompensa». Monsignor Chalandon, come ufficiale della Legion d'Onore, fu pregato di appuntare la croce sul petto di Don Vianney, ma non si sa per quali motivi la consegna della croce fu rimandata fino al mese di novembre. Nel frattempo giungeva ad Ars al nome del curato Vianney un plico richiedente 12 franchi per la spedizione dell'atto di nomina e della croce. 12 franchi!» esclamò il santo. «Ma io ho rifiutato, mai li verserò. Preferisco impiegare oggi i 12 franchi e nutrire 12 poveri». La nota passò a Don Toccanier, che la pagò senza nulla dire al santo, che più tardi doveva ripetere: «Non ho spedito il denaro e mi hanno ugualmente mandato la croce». Durante il mese di ottobre il prefetto, che era un cattolico praticante, venne personalmente a presentare le sue felicitazioni a Don Vianney. L'incontro ebbe luogo sulla piazza del villaggio e dopo i primi complimenti il santo così si esprimeva: «Signor prefetto, ve ne prego, portate la vostra croce a quelli che ne sono più degni di me. Io preferirei qualche cosa per i miei poveri». «Ma», replicò il prefetto, «se l'imperatore vi ha dato la croce, lo ha fatto più per onorare la Legion d'Onore che per onorare voi». Il complimento sarebbe continuato, ma il santo troncò il discorso con questa frase che accompagnò con un amabile sorriso: «Signor prefetto, pregherò il Dio che vi conservi a lungo nel dipartimento dell'En, perché vi possiate fare molto bene coi vostri consigli e soprattutto coi vostri esempi». E consegnata al conte di Guédelogon una medaglia della Santa Vergine, lo salutò e passò al suo confessionale. Giunto il mese di novembre, Monsignor Chalandon, delegato ufficiale per la consegna della croce, non aveva dimenticato la fine che aveva fatto 3 anni prima la mozzetta nuova del canonico Vianney e, senza fare un giudizio temerario, pensò che la medesima fine sarebbe stata riservata alla croce della Legion d'Onore. Valeva la pena che si incomodasse il vescovo per la consegna di un gioiello che forse sarebbe stato venduto alla sera di quel medesimo giorno? Credette perciò bene di non intervenire in questa funzione e subdelegò a questo ufficio Don Toccanier, successore di Don Raimond. Don Toccanier ricevette dunque dal vescovo di Belley la piccola scatola sigillata con una gran cerralacca rossa che racchiudeva la croce di argento dorato, ed a mezzogiorno, quando il santo si trovò solo nella sua camera, andò da lui per presentargli l'astuccio munito del sigillo imperiale. Il fratello sagrestano, i fratelli maestri Caterina Lassagna e Gianna Maria Scianai, preavvisati del fatto, attendevano sul pianerottolo e si fecero avanti quando Toccanier cominciò a parlare. «Signor curato, vi si mandano forse delle reliquie?» Il servo di Dio non sospettò nulla e ruppe i sigilli premuroso di venerare delle reliquie dei santi. «È tutto qui?» chiese scoprendo il magnifico gioiello. «Osservate, signor curato, la decorazione è coronata con una vera croce, vogliate benedirla?» Ed appena il santo ebbe tracciato il suo ampio segno di croce, aggiunse: «Ora, signor curato, permettete che io l'adatti per un momento al vostro petto.» «Oh, questo mai!» Mi si direbbe quello che San Benedetto diceva allo scudiere del re Totila, che si presentava vestito della porpora del suo signore: «Togli da te queste insegne di una dignità alla quale non hai diritto.» E ponendo la croce fra le mani di Don Toccanier, aggiunse: «Prendete, amico mio, ed abbiate tanto piacere nel ricevere questa croce quanto io ne ho nel consegnarvela.» Così fu decorato il povero curato d'Ars, che, avendo rifiutato si ponesse la croce di cavaliere sulla sua veste, non doveva portarlo in seguito che una volta sola sulla sua bara. L'8 dicembre 1854 ad Ars. Come spiegare nel nostro santo simile disprezzo degli onori e delle cose della terra? Lo si è già detto. Lo entusiasmava tutto ciò che aveva relazione con l'ordine soprannaturale che dilatava il regno di Dio, e per questo non poteva trovare gioia e riposo se non nei pensieri religiosi e nelle cose di Dio. Non amava che le feste della Chiesa. Fino agli ultimi anni della loro vita, i vegliardi di Ars hanno conservato il ricordo di una festa unica nel suo genere, nella quale Don Vianney manifestò una straordinaria gioia, piena di incontenibile entusiasmo. Nel novembre 1854, mentre Roma si preparava a celebrare con insolita magnificenza la definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, anche il curato d'Ars preparava la sua parrocchia a solennizzare il grande avvenimento. Alcuni giorni prima della proclamazione di questo nuovo dogma, ha deposto la baronessa di Belvei, intesi il servo di Dio tenere un discorso di circostanza, nel quale disse che, con l'accento di gioia, tutto quello che egli aveva fatto per Maria Immacolata. Ed un brivido passò per l'uditorio quando, concludendo, esclamò: «Se per dare qualche cosa alla Santa Vergine io potessi vendermi, mi venderei.» La festa straordinaria che si preparava non era che una magnifica occasione per testimoniare alla Santa Vergine una devozione radicata nel suo cuore da più di 60 anni. Aveva amato Maria fin dalla culla e, fattosi prete, aveva lavorato con tutte le sue forze per l'estensione del suo culto. Per convincersi, ai pellegrini bastava osservare le statuette poste sulla facciata delle case del villaggio. Sotto ogni tetto vi era un'immagine della Madre di Dio offerta dal curato, il quale vi aveva scritto in calce la sua firma. Nel 1844 aveva fatto collocare una grande statua della Vergine anche sul frontone della chiesa. 8 anni prima, il 1 maggio 1836, aveva già consacrato la parrocchia a Maria Immacolata, collocando il quadro che doveva ricordare questa consacrazione all'entrata della cappella della Santa Vergine. Poco dopo aveva fatto fondere un cuore d'argento dorato, ancora oggi sospeso al collo della Vergine Miracolosa, ed in quello aveva messo un nastro di seta bianca sul quale erano scritti i nomi dei suoi parrocchiani. In tutte le feste della Santa Vergine le comunioni erano numerose e la chiesa non si vuotava mai, e dalla sera di queste feste la navata e le cappelle laterali non erano sufficienti a contenere la folla innumerevole di coloro che volevano ascoltare l'omelia di Don Vianney in onore della Santa Vergine, tanto grande era l'entusiasmo col quale parlava della sua santità, della sua potenza e del suo amore. L'indimenticabile giornata dell'8 dicembre 1854, nella quale Pio IX definì, in virtù dell'autorità degli apostoli Pietro e Paolo e sua, che la Beata Vergine Maria è stata preservata da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante della sua concezione, riuscì quanto mai solenne. Malgrado la sua stanchezza, in quel giorno volle cantare egli stesso la Santa Messa e regalò con giubilo uno splendido paramento di velluto blu ricamato in oro, le cui figure coi fini arabeschi erano state disegnate dall'architetto Bossan. Il coro e la navata erano stati abbelliti dei loro più preziosi addobbi. Nel pomeriggio, dopo i vespri, tutta la parrocchia si recò in processione alla scuola dei fratelli, ove il curato benedisse una statua dell'Immacolata fatta collocare nel giardino a sue spese. Alla sera seguì l'illuminazione della chiesa e della facciata delle case, ed infine un'ultima cerimonia durante la quale il santo prese ancora la parola per la sua omelia. Quale felicità, ho sempre pensato che mancava questo raggio allo splendore delle verità cattoliche. Era una lacuna che non poteva durare nella religione. L'illuminazione era una novità per il curato come per i suoi parrocchiani. Prima di uscire a contemplarne la meraviglia, egli medesimo suonò e fece suonare così a lungo le campane, ha deposto Caterina Lassagne, che si accorse dalle parrocchie vicine credendo si trattasse di un incendio. Durante questo tempo il santo passeggiava festante con altri preti e coi fratelli alla luce delle fiaccole. Questa festa fu veramente uno dei giorni più belli della sua vita. Il vecchio curato, quasi settuagenario, sembrava ringiovanito di 20 anni. Mai un figlio fu più felice del trionfo della madre sua. E tutta questa immensa manifestazione di gioia era stata da lui ispirata ed organizzata.